Sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Decreto anticrisi al voto, ma il governo ha battuto su un ordine del giorno. La deroga al patto di stabilità prevista per Roma varrà anche per gli altri comuni. Con l'opposizione vota anche la Lega. Per Gaza è il giorno più duro. Intensi bombardamenti, colpita anche una sede ONU, ma la diplomazia spera ancora in una tregua. Il Vaticano, violati i diritti dei civili. Sequestrati nelle Filippine tre operatori della Croce Rossa, uno è italiano, il sospetto sul gruppo integralista che rapì padre Bossi. ThyssenKrupp si apre il processo, sostituiti tre giudici popolari, in aula la rabbia senza fine dei parenti. Attesa per le decisioni della Banca Centrale Europea, potrebbe tagliare ulteriormente i tassi di interesse, ma c'è massima incertezza. La decisione in diretta alle 13.45. Lotta ai fannulloni, ma da marzo la Camera per una settimana al mese non lavorerà, i deputati saranno sul territorio. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. E dunque, dopo la fiducia che è stata votata ieri, oggi la Camera vota il via libera al decreto anticrisi. Ve lo racconteremo in diretta appena ci sarà il voto. Prima però le altre notizie. Adesso però facciamo un salto alla Camera, Anna. Sì, sentiamo cosa sta succedendo nell'aula di Montecitorio. Sicurezza dei conti pubblici con l'anticipazione. Sta parlando Fabrizio Cicchitto, Popolo della Libertà, appena terminato il suo intervento. Walter Veltroni per il PD. Siamo davvero alle battute finali delle dichiarazioni di voto prima del voto finale. Andrea Viali, cosa è successo questa mattina? Sì, stamattina è successo, prima delle dichiarazioni di voto sulla votazione degli ordini del giorno, che la maggioranza, il governo è andato sotto su un emendamento che era stato presentato dal partito, scusate, un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico che impegna l'esecutivo a valutare la possibilità di deroghe al patto di stabilità interno anche per altri enti locali, come è avvenuto per Roma. Il Carroccio si è astenuto, ma ha fatto comunque sapere che voterà a favore del decreto nel voto finale, anche se su questo provvedimento restano dei punti di disaccordo, come ha spiegato il leghista Cota. Sentiamolo. Questo è un sì, perché la Lega sostiene il governo e in questo provvedimento ci sono cose importanti come la rinegoziazione degli accordi bilaterali per Malpensa. Ci sono anche cose sulle quali non siamo d'accordo, come il fatto che il Comune di Roma possa derogare al patto di stabilità e gli altri comuni del nord, per esempio anche quelli virtuosi, no. Ecco, sul decreto critiche sono arrivate naturalmente anche dall'opposizione, che reputa inadeguate le misure prese dal governo per fronteggiare la crisi e contesta anche l'esecutivo per la decisione presa ieri di chiedere la fiducia. Per il momento, in attesa del voto, qui da Montecitorio è tutto. Grazie Andrea Viale. Come dicevamo, sta parlando invece Fabrizio Cicchitto. Astrattismo, perché quando voi venite a proporre un'utilizzazione di un punto per quello che riguarda il PIL, non vi guardate intorno e non vi misurate con il fatto che noi abbiamo un debito pubblico oltre quota 100. E così dunque Cicchitto, torneremo a Montecitorio appena ci sarà il voto. E ora con le altre notizie andiamo nelle Filippine, dove è stato rapito un italiano dopo il sequestro, ricorderete, di padre Bossi. Il sequestrato è uno dei tre operatori umanitari della Croce Rossa Internazionale rapiti nel sud delle Filippine. Il sequestro è stato attribuito ad un gruppo integralista musulmano, ma ci racconta tutto in diretta Laura Bettini. Buongiorno a tutti, sì, come dicevate correttamente, tra i rapiti c'è anche un italiano, gli altri sono poi uno svizzero e una donna delle Filippine, Eugenio Vagni, questo è il nome dell'italiano, padre di un bambino di un anno con la moglie filippina, la moglie che è stata appena tra l'altro avvisata dalle autorità italiane poiché anche lei si trovava in volo di rientro dalle Filippine in Italia. Sentiamo la ricostruzione che ci ha fatto dell'accaduto Anna Schaaf, portavoce della Croce Rossa Internazionale. Tre operatori del nostro staff sono stati rapiti attorno alle 11.30 ora locale nella città di Jolo, sud-ovest delle Filippine. Avevano appena finito un sopralluogo nella locale prigione. Come saprete, in tutto il mondo rientra tra i compiti della Croce Rossa a fare visite periodiche ai detenuti. Il nostro staff stava lavorando a un progetto per il miglioramento delle condizioni sanitarie della prigione. Sono stati rapiti da diversi uomini armati non appena sono usciti dalla prigione. Stavano tornando alla sede della delegazione a Zamboanga. La Croce Rossa Internazionale ci ha confermato che non c'è ancora una rivendicazione, si pensa però al gruppo estremista islamico di Abu Sayyaf, che è vicino ad Al-Qaeda, da sempre molto attivo nella zona. Recentemente, tra l'altro, è stato autore di altri sequestri, una troupe televisiva filippina, un commerciante cinese. Nel 2007, nella non distante provincia di Zamboanga, fu loro ostaggio anche il missionario italiano, padre Bossi, liberato, pare senza pagamento di alcun riscatto, dopo 40 giorni. Ma ci sono state anche occasioni in cui le cose sono andate a finire molto peggio, finirono con la morte degli ostaggi filippini o degli stranieri che erano finiti nelle loro mani. La Croce Rossa però conta sui buoni rapporti che ha con tutti sull'isola e quindi spera di ottenere presto la liberazione. È tutto. Grazie Laura Bettini. A Torino ora andiamo, perché in corte d'assise si è aperto questa mattina il processo per le 7 vittime del rogo nella ThyssenKrupp 6 dicembre 2007. Imputati 6 manager della multinazionale tedesca. Sono numerosi i familiari delle vittime in aula. Andiamo a Palazzo di Giustizia, dove c'è Silvia Alparone. Buongiorno. Sì, buongiorno. È iniziato con molto ritardo questa mattina il processo alla Thyssen. Il motivo del ritardo: la questione relativa alle dichiarazioni di alcuni componenti della giuria popolare comparse ieri su alcuni quotidiani. La Corte ha accolto la richiesta dei 3 giudici coinvolti di astenersi ed essere sostituiti per spirito di servizio e per evitare intralci processuali. Verranno quindi nominati altri giudici popolari. Sono presenti oggi in aula solo 2 dei 6 imputati, assente tra gli altri l'amministratore delegato della società Harald Espean, che rischia fino a 21 anni di carcere per l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Ci sono invece, come dicevate voi da studio, i familiari delle vittime che chiedono giustizia per la strage. Devono andare in galera a tutti i costi, ma non solo Espean. Per me devono andare in galera anche gli altri. La speranza con la lei, che le cose vadano avanti per la strada giusta. Ci aspettiamo che le cose vadano come debbano andare, giustizia per i nostri figli e i mariti. Noi speriamo l'ergastolo, poi proviamo noi. Mi aspetto che comunque chi ha sbagliato paghi, tutto lì, perché non si può giocare con le vite di persone, no? Proprio operai, perché gli operai sono delle persone. Grazie dunque anche alla nostra Silvia Alparone. L'Italia sta valutando un'istanza di ripensamento al ministro della giustizia del Brasile, stiamo parlando del caso Battisti, affinché riveda la sua decisione rispetto al no all'estradizione. Lo ha annunciato il ministro della giustizia Alfano in merito alla vicenda appunto della concessione dello status di rifugiato politico all'ex terrorista che, come sapete, è stato condannato in Italia per 4 omicidi. Oggi l'ex ministro della giustizia Clemente Mastella, ospite a Viva Voce Radio 24, ha dato anche una sua singolare proposta. Mi farebbe molto piacere, perché questo ha lasciato sconcertati, diciamo, la stragrande maggioranza degli italiani, che i calciatori che vanno per la maggiore, che sono brasiliani in Italia, facessero un appello alle autorità del loro paese dicendo: questa cosa rende triste anche il rapporto. Noi che siamo trattati in questo paese estremamente bene, vogliamo fare qualcosa per riattivare i rapporti, cioè dicendo a Lula: intervieni, perché è una cosa ingiusta. Cioè vorrei che lo facessero. Ce ne sono tanti di calciatori, calciatori brasiliani, quelli che vanno per la maggiore, cioè farebbe un appello ai dirigenti politici europei dicendo: questa è una cosa ingiusta, in Italia è vissuto ingiustamente, siamo in uno splendido paese in cui siamo trattati egregiamente, facciamo un appello perché insomma la pagina non si chiuda così, perché è una pagina veramente triste. Rinviate di un mese le iscrizioni nelle scuole italiane per la riforma, ma oggi il ministro Gelmini firmerà l'attesa circolare. Una notizia che interessa molte famiglie, e allora vi ricordiamo tutte le novità. un mese in più per assimilare le novità e decidere di conseguenza. Le famiglie italiane possono iscrivere i figli a scuola entro il 28 di febbraio, non più entro fine gennaio. 30 giorni in più per consentire alle famiglie di conoscere la riforma e oggi sulla circolare sulle iscrizioni il ministro dell'istruzione Gelmini pone la firma. Le novità da assimilare in effetti sono molte. La riforma ad esempio introduce il maestro unico a cominciare dalle prime classi delle elementari. Al momento delle iscrizioni i genitori possono esprimere poi la loro preferenza rispetto all'articolazione dell'orario settimanale. Possono scegliere il modello base a 24 o 27 ore oppure quello di 30 ore, tempo che può salire fino a 40 ore nel tempo pieno e il doppio maestro. Per le classi successive, alle prime continuano gli attuali modelli orari e organizzativi. La riforma consente poi l'iscrizione in anticipo alla scuola dell'infanzia e primaria, rispettivamente ai bambini che compiono 3 e 6 anni entro il 30 aprile 2010. Sia le primarie che le medie tornano i voti al posto dei giudizi. Nelle scuole secondarie si può essere bocciati con il 5 in condotta. L'insegnamento di cittadinanza e costituzione partirà infine come sperimentazione per poi entrare a regime nel 2010-2011. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed ora apriamo la nostra finestra quotidiana sul mondo arabo. Continuate pure a buttare il fuoco sulle nostre case, sulle nostre moschee, sulle nostre scuole. Le nostre anime non moriranno, non ci inginocchieremo senza combattere stanotte a Gaza. Sono i versi pubblicati sul sito del cantautore americano Michael Hart per solidarietà con Gaza. Il sito America in Arabic, che riporta la notizia, ricorda che l'autore ha lavorato con molti personaggi celebri dello spettacolo come Natalie Cole e Jessica Simpson. A chi scarica gratis la canzone dal web, il chitarrista americano chiede di inviare una sottoscrizione all'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi. Adif Atahali, GR24, Il Sole 24 Ore. A blinding flash of white, they're dead or alive. E quella che state sentendo è proprio la musica del cantante di cui parlava Adif Atahali, Michael Hart. With ravaging fiery flames. Torniamo, tra poco andremo proprio a Gaza, tra l'altro, dove è stata colpita oggi anche una sede dell'ONU. Prima però torniamo a Montecitorio, perché sono terminate le dichiarazioni di voto. Sta parlando in questo momento il presidente della Camera, Gianfranco Fini. La votazione sulla questione pregiudiziale riferita al decreto legge in materia di semplificazione normativa. 13 e 16 minuti, GR24 extra large con le notizie di oggi. Al voto il decreto anticrisi, il governo battuto su un ordine del giorno voluto dal PD impegna il governo a prevedere la deroga al patto di stabilità prevista per Roma anche per gli altri enti locali. È passato grazie all'astensione della Lega, il capogruppo della Lega Cota. Questo è un sì perché la Lega sostiene il governo e in questo provvedimento ci sono cose importanti come la rinegoziazione degli accordi bilaterali per Malpensa. Ci sono anche cose sulle quali non siamo d'accordo, come il fatto che il Comune di Roma possa derogare al patto di stabilità e gli altri comuni del nord, per esempio anche quelli virtuosi, no. E la Camera ha appena approvato proprio in questo istante con 283 voti favorevoli il decreto anticrisi che ora passa al Senato. Un italiano originario di Montevarchi, in provincia di Arezzo, fra i 3 operatori umanitari della Croce Rossa Internazionale rapiti nel sud delle Filippine. Il sequestro è stato attribuito ad un gruppo integralista musulmano. Gli altri 2 sono un filippino ed uno svizzero. È una delle giornate più violente dall'inizio del conflitto nella striscia di Gaza. I colpi israeliani hanno centrato anche una sede dell'ONU, un palazzo dei media e un piccolo ospedale. Migliaia di civili palestinesi sono sfuggiti dalle loro case. Intanto dal Vaticano arriva un appello ad occuparsi maggiormente delle popolazioni civili usate, dice la Santa Sede, per scopi militari. Ma intanto, secondo il segretario dell'ONU Ban Ki-moon, ci sono ancora le condizioni per una tregua e al Cairo il capo dei mediatori israeliani vedrà il capo dei servizi segreti egiziani che conduce i colloqui separati con Hamas. La Corte d'Assise a Torino, il processo per le 7 vittime del rogo alla ThyssenKrupp il 6 dicembre del 2007 ai 6 manager della multinazionale tedesca, e per la prima volta nella lotta agli incidenti sul lavoro l'accusa è omicidio volontario e sono numerosi i familiari delle vittime a Palazzo di Giustizia, gli amici e i colleghi di lavoro che chiedono pene esemplari. Attesa per le decisioni della BCE, potrebbe tagliare ulteriormente i tassi di interesse, ma c'è massima incertezza. La decisione ve la daremo in diretta alle 13.45. Intanto frenata dell'inflazione a dicembre al 2,2% su base annua. L'Istat conferma il dato provvisorio diffuso a inizio gennaio. Nella media del 2008 l'inflazione si attesta al 3,3%, il massimo dal 96. E nel 2008 anche i consumi segnano una frenata record. Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confcommercio. Il 2008 dovrebbe chiudersi con un calo dei consumi in termini reali, quindi al netto di fenomeni puramente monetari, attorno allo 0,7%, che dopo il meno 3 del 1993 è il dato peggiore della storia repubblicana. Ogni anno 4 milioni di neonati muoiono entro il primo anno di vita, altri oltre 60 milioni le spose bambine nel mondo. Sono i dati ancora allarmanti della condizione dell'infanzia nel mondo nel rapporto UNICEF 2009. E andiamo alla Camera per un aggiornamento con Andrea Viali. Andrea. Eccoci, sì, come hai anticipato nei titoli, Alessio, la Camera dei Deputati ha dato il via libera al decreto anticrisi, i voti favorevoli sono stati 283, 237 quelli contrari, 2 gli astenuti, si è astenuto dal voto anche il Movimento per le Autonomie in dissenso con la maggioranza sul provvedimento che passa ora all'esame del Senato per l'approvazione definitiva, che dovrà arrivare entro il 28 di gennaio, quindi entro fine mese, pena la sua decadenza. E per il momento da qui è tutto. Grazie dunque Andrea Viali. Vi avevamo promesso anche gli aggiornamenti da Gaza. Ebbene, l'artiglieria israeliana ha colpito oggi la sede dell'UNRWA, l'agenzia dei rifugiati delle Nazioni Unite a Gaza City. 3 dipendenti dell'agenzia sono rimasti feriti. Colpito anche un ospedale, a quanto riferito da un portavoce dell'ONU. E il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon è in missione al Cairo. Ha condannato questa azione e ha chiesto spiegazioni dettagliate a Israele. In un altro attacco, 2 cameraman palestinesi sono rimasti feriti. Di mira sarebbe stato preso un edificio a Gaza che ospita gli uffici di diversi media arabi e internazionali, tra cui anche l'agenzia di stampa Reuters, che ha confermato questa notizia. E allora ci colleghiamo con Ugo Tramballi, che si trova in Israele al confine con la Striscia di Gaza. Buongiorno Ugo. Sì, buongiorno, sono dalle parti di Kisufim, nel sud della frontiera con Gaza, tra i soldati che rientrano per prendere qualche ora di riposo, mangiare qualcosa, e con altri che invece rientrano in Israele, intendo, e con altri che escono per andare a tornare a Gaza. Sì, la situazione è chiaramente molto tesa, è di un aumento delle attività militari. Gli israeliani stanno cercando di dare il colpo probabilmente finale alla struttura militare di Hamas, anche senza dover entrare nella fase 3 o dover aumentare il numero di truppe sul campo. Poco fa Ehud Barak si è scusato per l'errore compiuto dall'artiglieria israeliana che ha colpito il quartier generale delle Nazioni Unite. Non si sono ancora scusati per aver colpito invece un altro edificio dove ci sono molti giornalisti, ma probabilmente succederà anche questo. Ugo, potrebbe avere delle conseguenze questa azione involontaria di Israele sulla sede dell'ONU a Gaza, visto che, come tu dicevi, altri movimenti diplomatici lascerebbero invece intendere che il cessate il fuoco potrebbe essere vicino? Sì, vicino, ma non immediato. Le due cose, l'azione militare sul campo di Israele e il tentativo di mediazione, sono parallele e in qualche modo legate. È chiaro che l'azione militare così forte, addirittura dentro Gaza, di Israele è fatta anche per spingere Hamas, quello che resta di Hamas, ad accettare quel cessate il fuoco, almeno quel primo cessate il fuoco preliminare che già ieri sera era stato scartato da Hamas al Cairo, ma in qualche modo già lasciando la strada aperta per una considerazione, per probabilmente un'accettazione di un cessate il fuoco, che se comunque credo che se anche stasera Hamas cambiasse idea e accettasse il cessate il fuoco, dubito che Israele a questo punto accetti di cessare la sua operazione fino al raggiungimento dei suoi obiettivi finali. Grazie dunque Ugo Tramballi. Sentivamo dunque 2 fronti, quello militare e quello invece diplomatico. Ma quale clima si respira intanto invece nelle redazioni dei giornali israeliani che seguono il conflitto? Di quelle sentivamo oggi nel mirino delle bombe ci sono anche le sedi di media, quindi anche di giornali e televisioni. Ma dall'altra parte della frontiera in Israele C'è paura invece di altro, vale a dire della censura. Qualche giorno fa, ricordiamo, una petizione forte di 32.000 firme ha chiesto la cacciata di Yonit Levi, la conduttrice del maggiore TG israeliano, colpevole secondo molti di mostrare troppa compassione verso i palestinesi. Ebbene, Sergio Nava ne ha parlato con Danny Rubinstein, storico inviato di guerra del quotidiano Haaretz, che ora è freelance ed editorialista. There is a difference. The difference is that up till now we don't know really whether it's going right or wrong. Questa guerra presenta una differenza dalle precedenti. Ancora non sappiamo chiaramente se il conflitto stia andando bene o male. Nel conflitto precedente, quello del Libano, comprendemmo invece presto che le cose non andavano affatto bene, per cui i media erano molto critici e l'approccio alla guerra era ben più negativo. In questa crisi abbiamo invece l'impressione che le cose vadano bene. In questa situazione la gente esige un atteggiamento più positivo dai media. C'è quindi una pressione sui giornalisti perché vedano il lato positivo delle cose e questo porta a critiche molto minori. I corrispondenti internazionali criticano il fatto che la striscia sia off limits per loro. Lei pensa che la censura sia eccessiva da parte del governo israeliano? There was only one incident with some Iranian broadcasting service. Abbiamo avuto un solo caso esplicito di censura finora, riguarda una testata iraniana. In realtà il problema non è tanto la censura militare, alla quale ci siamo anche abituati. Il problema è l'autocensura. La maggior parte dei giornalisti che hanno critiche da fare sulla guerra finiscono col non pubblicarle. Non lo fanno perché sono sotto la minaccia dei lettori e dell'audience. Se dici o scrivi qualcosa contro il conflitto, lo vedrai subito riportato dovunque, soprattutto in internet, e molti finiranno con l'attaccarti. Secondo lei è difficile essere oggettivo per un reporter in Israele in questo preciso momento storico? Yeah, I think it's difficult. If you because the atmosphere is very patriotic. Sì, penso sia difficile. L'atmosfera è molto patriottica e conformista. Chiunque finisce col dirti se hai qualche critica da fare, rimandala dopo la guerra. Questa è l'atmosfera generale oggi in Israele. After the war, something like this. That's the general feeling in the Israeli street. Intanto da registrare anche il primo intervento duro del Vaticano dall'inizio della crisi. Il Vaticano al Consiglio di Sicurezza dell'ONU è intervenuto con una lettera dell'arcivescovo Celestino Migliore e poi che poi ha parlato anche direttamente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU riunito proprio per votare la risoluzione su Gaza. Negando l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza viene meno il basilare rispetto dei diritti e della dignità delle persone e delle comunità, così la posizione della Santa Sede. E Gaza è sicuramente uno dei luoghi della terra dove è più difficile vivere e anche nascere. Nascere bene in salute dovrebbe infatti essere il primo diritto di ogni essere umano, ma purtroppo non è così. Stiamo allargando il quadro, naturalmente, non parliamo più solo di Medio Oriente, ma purtroppo del mondo intero. Del mondo intero e di quella che è la situazione dei bambini, non solo a Gaza, ma nel mondo intero. Un quadro che anche quest'anno davvero non è roseo. Nel rapporto 2009 dell'UNICEF, di cui però ci racconta tutto Chiara Di Michele, buongiorno. Sì, buongiorno. Il bilancio delle vittime tracciato nel rapporto dell'UNICEF sulla salute materna e neonatale è sconcertante. Sebbene si siano fatti dei passi avanti per quanto riguarda la mortalità infantile, che è passata dai 13 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni morti nel 1990 ai 9 milioni del 2007, un dato tuttavia ancora sconcertante, si sono evidenziati meno progressi nel ridurre la mortalità materna e dei neonati. Ogni anno infatti muoiono 4 milioni di neonati entro il primo mese di vita. Dal 90 a oggi sono deceduti oltre 7 milioni di bambini con meno di 28 giorni. Nello stesso periodo 10 milioni di donne sono morte per complicazioni legate al parto e alla gravidanza. In particolare il 99% di questi decessi si è verificato nei paesi in via di sviluppo. In questi paesi ogni giorno, ripeto ogni giorno, muoiono oltre 25.000 bambini con meno di 5 anni, di cui 11.000 sono neonati e 1.500 donne per complicanze relative al parto o alla gravidanza. I paesi più colpiti sono Africa e Asia. Una donna nigeriana su 7 corre il rischio di morire per parto. Nei paesi in via di sviluppo il rapporto è di 1 su 76 contro 1 su 8.000 dei paesi industrializzati. Le donne dei paesi più poveri hanno 300 probabilità in più di morire rispetto ai paesi industrializzati, e un paese nato in un paese in via di sviluppo ne ha quasi 14 volte in più rispetto ad un coetaneo di un paese sviluppato. Secondo l'UNICEF, contro il tasso di mortalità materna ed infantile servono sistemi integrati in un continuum di cure a domicilio e di servizi territoriali e di assistenza di base. Grazie Chiara Di Michele. E dopo questi dati davvero brutti dell'UNICEF, proviamo a cambiare argomento, a tirare un po' il fiato, a distrarci un attimo, Anna. Magari con un po' di musica. Cambiamo davvero decisamente argomento. A Roma domenica prossima, 4 elicotteri in cielo e un quartetto d'archi saranno protagonisti di un concerto evento di Stockhausen, il grande compositore tedesco scomparso un anno fa. Per la terza volta sta per avverarsi il sogno di Stockhausen. L'Helicopter String Quartet, una delle opere più famose del compositore tedesco scomparso poco più di un anno fa, darà vita domenica prossima, 18 gennaio, ad un vero e proprio evento. Il capolavoro cosmico di Stockhausen sarà eseguito in quello spazio di cielo che sovrasta l'Auditorium Parco della Musica di Roma. Per la prima volta in Italia, la terza nel mondo, un quartetto di elicotteri con a bordo i musicisti del quartetto Arditti, due violini, una viola e un violoncello, darà vita al sogno di Stockhausen di far volare la sua musica durante un volo vero. Il concerto è stato prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, che ha voluto realizzarlo in concomitanza con la quarta edizione del Festival delle Scienze, quest'anno dedicato all'universo e alle celebrazioni dell'opera di Galileo. E il 2009 è anche, lo ricordiamo, l'anno internazionale dell'astronomia. Il presidente della Fondazione Musica per Roma, Gianni Borgna. Una sfida estrema per l'auditorium. Il canto di due violini, della viola e del violoncello, si unirà col suono dei motori, delle pale, delle nuvole, del vento, anche degli elementi naturali. Vedremo se col suono degli archi, come voleva Stockhausen, si può davvero imitare la lingua del cosmo. I suoni del sogno visionario di Stockhausen, una delle opere impossibili del Novecento, composta per il Festival di Salisburgo nel 1996, scenderanno dal cielo a terra grazie ad un sofisticato sistema di trasmissione, e le immagini degli elicotteri saranno seguite dal pubblico attraverso quattro torri audio video all'interno della Sala Sinopoli. L'Helicopter String Quartet, sono parole di Stockhausen, è dedicato a tutti gli astronauti del mondo. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:35 minuti, le notizie extra large. Approvato alla Camera il decreto anticrisi, ora passa al Senato. Il governo però ha battuto su un ordine del giorno voluto dal PD con l'astensione della Lega. Impegna l'esecutivo a prevedere la deroga al patto di stabilità prevista per Roma anche per gli altri enti locali. Confindustria commenta insufficienti i 4 miliardi di euro previsti dall'esecutivo. Un italiano originario di Montevarchi, in provincia di Arezzo, fra i tre operatori umanitari della Croce Rossa Internazionale rapiti nel sud delle Filippine. Il sequestro è stato attribuito ad un gruppo integralista musulmano. Gli altri due sono un filippino ed uno svizzero. La portavoce della Croce Rossa, Anne Schaff. Il nostro staff stava lavorando a un progetto per il miglioramento delle condizioni sanitarie della prigione. Sono stati rapiti da diversi uomini armati non appena sono usciti dalla prigione. Stavano tornando alla sede della delegazione a Zamboanga. È una delle giornate più violente dall'inizio del conflitto nella striscia di Gaza. I colpi israeliani hanno centrato anche una sede dell'ONU, un palazzo dei media e un piccolo ospedale. Migliaia di civili palestinesi sono fuggiti dalle loro case. Intanto dal Vaticano arriva un appello ad occuparsi maggiormente delle popolazioni civili usate, dice la Santa Sede, per scopi militari. E secondo il segretario dell'ONU, Ban Ki-moon, ci sono ancora le condizioni per una tregua. È al Cairo il capo dei mediatori israeliani. Vedrà il capo dei servizi segreti egiziani, che conduce i colloqui separati con Hamas. In corte d'assiso a Torino il processo per le 7 vittime del rogo nella ThyssenKrupp il 6 dicembre del 2007 ai 6 manager della multinazionale tedesca. E per la prima volta nella lotta agli incidenti sul lavoro l'accusa è omicidio volontario. Sono numerosi intanto i familiari delle vittime, gli amici e i colleghi di lavoro che ancora chiedono pene esemplari. Devono andare in galera a tutti i costi, devono andare in galera, devono andare, ma non solo Espenan. Giustizia per i nostri figli e i mariti. Noi speriamo l'ergastolo, poi proviamo noi. Mi aspetto che comunque chi ha sbagliato paghi, tutto lì, perché non si può giocare con le vite di persone, no? Proprio operai, perché gli operai sono delle persone. Attesa per le decisioni della BCE, potrebbe tagliare ulteriormente i tassi di interesse, ma c'è massima incertezza. La decisione ve la daremo in diretta alle 13.45. È intanto frenata dell'inflazione a dicembre, meno 0,1% su base mensile. Nella media del 2008 però l'inflazione si attesta al 3,3%, il massimo dal 96, e nel 2008 anche i consumi segnano una frenata record. Tutto pronto per le iscrizioni al nuovo anno scolastico. Il ministro Maria Stella Gelmini firmerà oggi l'attesa circolare. Le famiglie potranno scegliere per le elementari maestro unico e 24 ore o due maestre e 40 ore. In prima elementare potranno andare i bambini che compiranno 6 anni entro il 30 aprile 2010. Siamo ai dati economici di giornata anticipati dai nostri titoli. Oggi l'Istat ha elaborato i valori definitivi dell'inflazione a dicembre. La variazione è stata negativa, meno 0,1% rispetto a novembre. Dunque prezzi in frenata sulla scia della crisi economica, ma il 2008 si chiude con un valore record dell'inflazione, più 3,3%, il valore più alto da 12 anni a questa parte. E se i prezzi a dicembre continuano a frenare, anche i consumi languono. A confermarlo oggi ci sono anche i dati per il 2008 di Confcommercio, dati presentati oggi, e per noi c'era Paola Nania. Buongiorno. Buongiorno a voi. L'immagine che usa Confcommercio per spiegare la crisi che stiamo vivendo è quella di una U, vale a dire di una crisi prolungata nel tempo ma che non conosce picchi particolarmente negativi. Insomma, secondo Confcommercio il temuto crollo dei consumi non c'è stato, ma le cose non vanno bene. La stima dell'ufficio studi parla di una contrazione dei consumi nel 2008 dello 0,7%, meno 0,7% è previsto anche per il 2009. Ma sentiamo dallo stesso direttore dell'ufficio studi, Mariano Bella, quali sono stati i settori più penalizzati. Il 2008 è andato abbastanza male per tutta l'area dell'abbigliamento, delle calzature e della mobilità nel complesso, sia come servizi di mobilità che come acquisti di auto e di moto. E quindi questo testimonia il fatto che, poiché la mobilità è in cima alle preferenze dei consumatori, c'è una riduzione non solo di quantità di moneta, di quattrini in tasca, ma anche di benessere, ecco, che è una cosa anche più grave. Per il futuro forse le cose saranno leggermente migliori, soprattutto nel 2010, non solo per la mobilità ma anche per l'area dell'elettronica di consumo e della telefonia. Parlavamo prima di crisi a U, con un PIL nel 2008 previsto a meno 0,4%, nel 2009 a meno 0,6%. La ripresa timida, come sentivamo già dalle parole di Mariano Bella, dovrebbe arrivare solo nella seconda parte del 2010. L'elemento di maggiore preoccupazione, ha concluso il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, è comunque la disoccupazione, che potrebbe raggiungere la soglia dell'8%, cioè quasi 2 milioni di disoccupati nel 2009. Per ora è tutto. Grazie Paola Nania. E intanto scendono anche ancora i tassi sul mercato interbancario. L'Euribor a tre mesi è andato giù di 6 punti base al 2,51%, toccando i minimi da 2 anni a questa parte. E come già vi abbiamo raccontato, come vi abbiamo raccontato in diretta, l'Aula della Camera attorno alle 13.15 ha approvato il decreto anticrisi su cui ieri il governo aveva ottenuto la fiducia. E sì, sono stati 283, no, 237, 2 gli astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, ma poco fa le dichiarazioni del Centro Studi Confindustria, che accusa in Italia occorre riallacciare in fretta un ammontare di risorse ben maggiore dei circa 4 miliardi previsti dal decreto anticrisi per il 2009. Così Confindustria, nella congiuntura flash del Centro Studi, in cui si sottolinea che è necessario adottare riforme strutturali che portino risparmi nei prossimi anni e accrescano la credibilità del Paese. E a proposito delle misure anticrisi messe in campo proprio dal governo, ci sono da registrare anche le difficoltà nel decollo della social card. Qualche quotidiano nazionale parla già di grande beffa. Certo, è un esordio quantomeno difficile quello della social card, la carta di credito prepagata e anonima voluta dal governo per aiutare le famiglie in difficoltà economica. In molti nel mese di dicembre si sono messi in fila negli uffici postali per ritirarla. Secondo l'INPS ne sono state distribuite oltre 520.000, di queste però sembra che quasi un terzo, cioè circa 190.000, non abbia ancora la prevista copertura economica di 120 euro, e così non mancano in questi giorni i casi di persone che, arrivate alle casse dei supermercati, vedono respingersi i pagamenti per mancanza di credito sulla loro social card, con conseguenti scene di imbarazzo mitigate solo in parte dall'anonimato garantito dalla carta. Disguidi subito cavalcati dall'opposizione, secondo la quale sarebbe meglio dare a chi ne ha veramente bisogno anche i 7 milioni di euro che finiranno al circuito Mastercard per l'operazione. Un centinaio di deputati del centrosinistra ha anche rivolto un'interrogazione al governo che col ministro Vito risponderà in aula oggi pomeriggio alla Camera. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E andiamo sulle pagine dei giornali stranieri con Giulia Crivelli. Buongiorno. Buongiorno. E in qualche modo una sorpresa che però Radio 24 con Jefferson Ming un po' nell'aria aveva fatto presentire. Sì, il titolo di Financial Times è la Cina rivede i suoi dati e per dimostrare che ha effettuato il sorpasso sulla Germania, sorpasso economico. Naturalmente la Cina, gli economisti cinesi degli uffici studi del governo hanno rivisto i dati, tant'è che poi Financial Times spiega questa cosa, però a pagina 3 c'è un articolo che si chiama Economist at Odds, cioè gli economisti sono un po' confusi, un po' incerti, perché adesso la domanda è: ma quanto sono affidabili le statistiche economiche cinesi? Sembra infatti fin troppo questo sorpasso, poi c'è questa aggravante dell'aver rivisto dei dati che in teoria dovrebbero essere già vecchi, certificati e dimostrati, quindi c'è un po' così il dubbio su questo effettivo sorpasso, che però sulla carta c'è. Grazie, grazie Giulia Crivelli anche per oggi. Adesso invece torniamo in Italia con una storia, sentite bene, di torri e di rondini. Del grattacielo disegnato da Massimiliano Fuxas per la regione Piemonte si parla da anni. Pensato come uno dei simboli della nuova Torino, ha rischiato più volte di non essere realizzato. All'inizio per mancanza di risorse, con prevedibile coda di polemiche. Poi sono scoppiate quelle sollevate da chi, nella città della Mole, di grattacieli proprio non vuole sentir parlare. Siano privati, come il San Paolo Intesa disegnato da Renzo Piano, o pubblici, come il grattacielo regionale ideato dall'architetto romano. Alla fine la giunta Bresso ha trovato i soldi e ha deciso di realizzarlo comunque il grattacielo, spostandone però la collocazione dal Viale della Spina all'ex area Fiat Avio. Tutto bene dunque. E invece no. Perché il torracchione di 181 metri in cristallo è destinato a nascere proprio lungo il Po, che è anche il principale corridoio ecologico utilizzato dagli uccelli. Inoltre si trova sulla rotta di attraversamento dei volatili che dalla collina scendono verso la città. E allora? E allora si è trovata una soluzione tecnica. Avvisatori acustici sulla torre allontaneranno le rondini di passaggio e una serie di adesivi da applicare sulle finestre avvertiranno i pennuti del rischio collisione. Basterà? Si spera di sì. Altrimenti abbiamo un suggerimento. All'aeroporto di Torino Caselle, così come a Linate, per tenere lontani gli uccelli di passo dalle piste si usano anche i falchi. In fondo, l'uso dei rapaci risale al Medioevo, l'epoca d'oro delle torri. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:46 minuti, le notizie di oggi. Approvato alla Camera il decreto anticrisi, ora passa al Senato. Il governo battuto su un ordine del giorno voluto dal PD con l'astensione della Lega. Impegna il governo a prevedere la deroga al patto di stabilità già prevista per Roma anche per gli altri enti locali. Un italiano originario di Montevarchi fra i tre operatori umanitari della Croce Rossa rapiti nel sud delle Filippine. Il sequestro attribuito ad un gruppo integralista musulmano. Gli altri due sono un filippino e uno svizzero. È una delle giornate più violente dall'inizio del conflitto nella striscia di Gaza. I colpi israeliani hanno centrato anche una sede dell'ONU, un palazzo dei media e un piccolo ospedale. Migliaia di civili palestinesi sono fuggiti dalle loro case e dal Vaticano arriva un appello ad occuparsi maggiormente delle popolazioni civili usate, dice la Santa Sede, per scopi militari. In corte d'assise a Torino il processo per le 7 vittime del rogo alla ThyssenKrupp. Accusati 6 manager della multinazionale tedesca. Per la prima volta c'è anche l'accusa di omicidio volontario. In aula i familiari e gli amici delle vittime. Frenata dell'inflazione a dicembre, meno 0,1% su base mensile. L'Istat conferma il dato provvisorio diffuso a inizio gennaio e nella media del 2008 l'inflazione si attesta al record del 3,3%, massimo dal 96. Nel 2008 anche i consumi hanno segnato una frenata record. Mariano Bella, direttore del Centro Studi Confcommercio. Il 2008 dovrebbe chiudersi con un calo dei consumi in termini reali, quindi al netto di fenomeni puramente monetari, attorno allo 0,7%, che dopo il meno 3 del 1993 è il dato peggiore della storia repubblicana. Ed ecco piccola è arrivata l'attesa la decisione della BCE che ancora taglia i tassi. Beda Romano da Francoforte, buongiorno. Buongiorno. Dunque, nuovo taglio 0,50 punti, siamo davvero a livelli record. Beh, la banca ha deciso di tagliare ancora una volta e a questo punto ha tagliato di 225 punti base in un po' più di due mesi. Ha portato il tasso di interesse principale al 2%, che è un livello che non vediamo ormai da alcuni anni nella zona euro. Non è un livello nuovo record, è certamente il livello più basso mai raggiunto dalla BCE negli ultimi tempi, ma la BCE aveva già portato il tasso di interesse al 2% nei primissimi anni 2000 a seguito dello scoppio della bolla sui titoli tecnologici. A questo punto ci sarà una conferenza stampa del presidente Jean-Claude Trichet e l'importante credo sarà capire quali saranno le prospettive di politica monetaria nei prossimi mesi. La banca dovrà chiarire al mercato fino a che livello pensa di portare il tasso di riferimento. Oggi il mercato continua a pensare che la banca potrebbe ridurre nuovamente il costo del denaro nei prossimi mesi, tanto è forte la recessione nella zona euro. E grazie a Beda Romano. Ripetiamo dunque, nuovo taglio dei tassi di mezzo punto da parte della BCE, siamo al 2%, come ci spiegava Beda Romano, sostanzialmente al minimo storico. In tempi di, quali sono questi che stiamo vivendo, di anatemi sull'assenteismo nella pubblica amministrazione e anche controlli minuziosi sui certificati per malattie e battaglie contro i fannulloni, di cui siamo occupati anche noi di Radio 24 molte volte, dalla Camera arriva una novità. Da marzo, infatti, Montecitorio sospenderà, sentite bene, i lavori per una settimana al mese, quindi non lavoreranno i parlamentari per questa settimana, per consentire ai deputati di dedicarsi alle attività sul territorio. Inevitabile pensare a un nuovo colpo di mano della casta politica per lavorare di meno. Paolo Panceri ha provato a chiederlo ad Antonio Leone del PDL, vicepresidente della Camera. Sentite come ci ha risposto. Questa è una deliberazione che era già stata presa nel novembre, se non sbaglio, non ricordo bene la data, in sede di ufficio di presidenza e in sede di conferenza di capigruppo, di organizzare i lavori in questo modo, 3 settimane e sì e una no. Però c'è un allargamento dei tempi di lavoro delle 3 settimane, cioè si ampliano i tempi di lavoro, si lavorerà dal lunedì al venerdì, cosa che adesso non è. Quindi questa settimana di attività extra aula viene compensata da un maggior lavoro in aula? C'è la compensazione, è fatta scientificamente la cosa, non è patodica, è fatta scientificamente perché ad un allargamento dei tempi di lavoro delle 3 settimane c'è la soppressione in quella settimana, ma non si diminuisce il tempo di lavoro, anzi lo si razionalizza dando la possibilità alle commissioni di poter lavorare. Quindi smentiamo i maliziosi che penseranno che i deputati vogliono lavorare una settimana in meno al mese? Assolutamente no, assolutamente, e cioè l'intento è solo quello di razionalizzazione senza diminuire i tempi di lavoro. Noi non abbiamo mai cominciato a votare il lunedì, cominceremo a votare anche il lunedì pomeriggio. E così dunque risponde all'accusa per la casta Antonio Leone, PDL, vicepresidente della Camera. Lavoreranno di più. E torniamo al decreto anticrisi, votato oggi dalla Camera, passa al Senato. Ieri erano stati i sindacati a chiedere di riaprire il dibattito e quindi di evitare in qualche modo anche la fiducia che ha blindato il provvedimento per aumentare l'ammontare delle risorse da destinare a misure per contrastare la crisi. Oggi il Centro Studi di Confindustria con la stima congiunturale fa una valutazione. Buongiorno intanto a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi. Buongiorno a tutti. Anche in questo caso di un maggiore sforzo da parte del governo nel senso delle riforme, Luca, è così? Assolutamente sì, le misure varate vanno nella giusta direzione e in alcuni ambiti, in altri sono del tutto insufficienti, pensiamo per esempio all'enorme credito che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione e lì bisogna fare assolutamente di più, così come bisogna fare di più sugli investimenti infrastrutturali, perché è inutile programmare di spendere 16 miliardi quando in realtà questi soldi verranno erogati negli anni futuri. La crisi è oggi, in questo momento, ed è in questo momento che bisogna sostenere la domanda. Farlo in un modo intelligente, ovviamente, farlo in un modo che effettivamente le famiglie e le imprese si mettano a spendere e che lo Stato stesso spenda in modo da consentire al sistema economico di superare questo momento molto difficile, altrimenti avremo imprese assolutamente sane perché in realtà tarate su un business che normalmente è più elevato, ma che di fronte alla grande difficoltà attuale, al crollo della domanda, non ce la fanno, e allora avremo una contrazione della base imprenditoriale produttiva del paese che non riusciremo poi a recuperare. Grazie davvero Luca Paolazzi, Centro Studi Confindustria. L'abbiamo davvero rintracciato all'ultimo momento perché il flash ve l'abbiamo dato davvero in diretta. Così come sono invece gli ultimissimi minuti fuori dalla Commissione Vigilanza RAI, che tra poco si riunirà, si metterà al lavoro, si discute ancora molto sul nome del suo presidente. Allora Vincenzo Miglietta, che succede? Sì, buongiorno, è la prima convocazione della Commissione di Vigilanza con Presidente Villari, quest'ultimo con molta probabilità darà luogo ad una riunione pressoché deserta, dovrebbero essere presenti infatti solo due deputati, Marco Beltrandi, radicale nel PD, e Luciano Sardelli, Movimento per l'Autonomia e da sempre suoi sostenitori. Non ci saranno, come annunciato, deputati e senatori del Partito Democratico, anche il Popolo della Libertà sarà assente, lo ha comunicato il capogruppo al Senato Gasparri. A questo punto l'interesse è intorno a ciò che deciderà di fare Villari, se affrontare l'ordine del giorno che prevede persino la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della RAI o se rinviare la seduta. Il cerchio intorno all'attuale presidente della vigilanza sembra comunque stringersi. Le sue dimissioni sono state richieste da tutti i vertici parlamentari ed istituzionali. Di fronte al no di Villari si punta ora allo scioglimento della stessa commissione. Da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Adesso vogliamo celebrare un piccolo anniversario. 18 anni fa esatti la televisione italiana viveva una rivoluzione. Sentiamo quale. Pronto? Silvia? Pronto, hanno attaccato. Hanno attaccato. Attaccato. Dunque, da Baghdad, canale 7, c'è la ABC, c'è il corrispondente che dice che il cielo di Baghdad è pieno di fiamme di fuoco. Ecco, hai sentito? Che sto sentendo. Francesco, hai sentito? Quindi allora sentito. Silvia... La storia nella storia. Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio del 1991 Emilio Fede, alla guida di Studio Aperto, dà per primo la notizia delle bombe che cadono su Baghdad. È un doppio evento, è la prima volta infatti, proprio con la guerra del Golfo, che Mediaset trasmette un telegiornale in diretta anticipando la RAI nell'annuncio dell'attacco. È come se si fosse rotto un argine, anzi un altro muro, quello del monopolio della RAI nella diretta. Dopo quella guerra l'uso di questo strumento diviene un diritto acquisito, una consuetudine, che si perfeziona poi con la nascita del TG5 di Mentana dopo l'assegnazione delle concessioni che impongono che ogni rete abbia una testata giornalistica indipendente. Ma quel collegamento di 18 anni fa, quella voce lontana lanciata da Fede, è uno spartiacque che cambia tutto, e non solo il mondo dell'informazione. Il famoso bello della diretta arrivò anche nella TV privata, allietandoci nel bene e nel male con i suoi incidenti di percorso, nei quali sempre lo stesso Fede resta insuperato e brillante maestro. È pronta, l'avete visto correre nei titoli, l'edizione straordinaria di Studio Aperto diretto da Emilio Fede, al quale diamo immediatamente la linea. Cocciolone, guarda che belle gambe là, se che se. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Il riepilogo delle principali notizie di oggi. Decreto anticrisi approvato alla Camera, ora passa al Senato, ma il governo è battuto su un ordine del giorno del PD con l'astensione della Lega. La deroga al patto di stabilità prevista per Roma varrà anche per gli altri comuni. Critica Confindustria, 4 miliardi sono insufficienti per questa crisi, dice il Centro Studi. Servono riforme strutturali che portino risparmi nei prossimi anni e accrescano la credibilità del Paese. Per Gaza è il giorno più duro, intensi bombardamenti, colpita anche una sede dell'ONU, ma la diplomazia spera ancora in una tregua. Il Vaticano, violati i diritti dei civili. Sequestrati nelle Filippine tre operatori della Croce Rossa, uno è italiano, il sospetto sul gruppo integralista che rapì padre Bossi. ThyssenKrupp si apre il processo, a Torino sostituiti tre giudici popolari, in aula la rabbia senza fine dei parenti. La BCE taglia ancora mezzo punto base in meno, i tassi al 2%. GRS Large è tutto per questa edizione. Alessio Maurizio in studio insieme ad Anna Migliorati, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Extra Large, @radio24.it, come sempre l'indirizzo a cui potete scriverci. L'appuntamento altrimenti è per domani a partire dalle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.